Cari fratelli e sorelle, desidero quest'oggi ripercorrere insieme con voi le tappe del viaggio apostolico che ho potuto compiere nei giorni scorsi in Polonia. Ringrazio l'Episcopato polacco, in particolare gli arcivescovi metropoliti di Varsavia e di Cracovia, per lo zelo e la cura con cui hanno preparato questa visita. Rinnovo l'espressione della mia riconoscenza al Presidente della Repubblica e alle diverse autorità del Paese, come pure a tutti coloro che hanno cooperato alla riuscita di questo evento. Soprattutto voglio dire un grande grazie ai cattolici e all'intero popolo polacco che ha sentito stringersi a me in un abbraccio ricco di colore umano e spirituale. Molti di voi lo hanno visto in televisione, che era una vera espressione della cattolicità, dell'amore della Chiesa che si esprime nell'amore per il successore di Pietro, così per il mistero della Chiesa stessa e della presenza di Cristo tra di noi. Dopo l'arrivo all'aeroporto di Varsavia è stata la cattedrale di questa importante metropoli il luogo del mio primo appuntamento riservato ai sacerdoti nel giorno stesso in cui per provvidenza ricorreva il 50° di ordinazione presbiterale del cardinale Josef Klemm, pastore di quella arcidiocesi. Così il mio pellegrinaggio è iniziato nel segno del sacerdozio ed è poi proseguito con una testimonianza di sollecitudine ecumenica resa nella Chiesa Luterana della Santissima Trinità. In questa occasione, unito con i rappresentanti delle diverse chiese e comunità ecclesiali che vivono in Polonia, ho ribadito il fermo proposito di considerare l'impegno per la ricostituzione della piena e visibile unità tra cristiani una vera priorità del mio ministero. È stata poi la solenne Eucaristia in Piazza Pilsudski, nel centro di Varsavia, gremita di gente. Questo luogo dove abbiamo solennemente con gioia celebrato la liturgia ha acquistato ormai un valore simbolico, avendo ospitato eventi storici come le sante messe celebrate da Giovanni Paolo II e quella per i funerali del cardinale primate Stefan Wyszyński, nonché alcune affollatissime celebrazioni di suffragio nei giorni dopo la morte del mio venerato predecessore. Nel programma non poteva mancare la visita ai santuari che hanno segnato la vita del sacerdote e vescovo Karol Wojtyła, soprattutto tre, quelli di Częstochowa, di Kalwaria Szepczydowska e della Divina Misericordia. Non potrò dimenticare la sosta nel celebre santuario mariano di Jasna Góra, su quel chiaro monte, cuore della nazione polacca, come in un ideale cenacolo numerosissimi fedeli, specialmente religiosi, religiosi, seminaristi e rappresentanti dei movimenti ecclesiali si sono raccolti attorno al successore di Pietro per mettersi insieme con me in ascolto di Maria. Traendo spunto dalla stupenda meditazione mariana che Giovanni Paolo II ha donato alla Chiesa nell'enciclica Redemptoris Mater, ho voluto riproporre la fede come atteggiamento fondamentale dello spirito che coinvolge l'intera persona, non è una cosa solo intellettuale o sentimentale. La fede vera coinvolge pensieri, affetti, aspetti, intenzione, relazione, corporeità, attività, lavoro quotidiano. Alla Vergine Addolorata, visitando poi il meraviglioso santuario di Kalvaria Szepczydowska, poco distante da Cracovia, ho chiesto di sostenere la fede della comunità ecclesiale nei momenti di difficoltà e di prova. La successiva tappa nel santuario della Divina Misericordia a Wagiewniki mi ha dato modo di sottolineare che solo la Divina Misericordia illumina il mistero dell'uomo. Nel convento vicino a questo santuario ha vissuto Suor Faustina Kowalska, che ha contemplato le piaghe luminose di Cristo risorto e ricevette un messaggio di fiducia per l'umanità, il messaggio della misericordia divina di cui Giovanni Paolo II si è fatto eco ed interprete, e che è realmente un messaggio centrale proprio per nostro tempo: la misericordia come la forza di Dio, il limite divino contro il male del mondo. Altri simbolici santuari ho voluto visitare. Mi riferisco a Wadowice, località diventa famosa perché là Karol Wojtyła è nato ed è stato battezzato. Visitarla mi ha offerto l'opportunità di ringraziare il Signore per il dono di questo infaticabile servitore del Vangelo. Le radici della sua fede robusta, della sua umanità così sensibile e aperta, del suo amore per la bellezza e la verità, della sua devozione alla Madonna, del suo amore per la Chiesa e soprattutto della sua vocazione alla santità, sono in questa cittadina dove egli ha ricevuto la prima educazione e formazione. Altro luogo caro a Giovanni Paolo II è la cattedrale di Wawel a Cracovia, luogo simbolico per la nazione polacca. Nella cripta di quella cattedrale Karol Wojtyła celebrò la sua prima messa. Un'altra bellissima esperienza è stata l'incontro con i giovani che ha avuto luogo a Cracovia nel grande parco di Buonie. A loro, ai giovani, venuti in grande numero, ho consegnato simbolicamente la fiamma della misericordia, perché siano nel mondo araldi dell'amore e della misericordia divina. Con i giovani mi sono soffermato a meditare sulla parola evangelica della casa costruita sulla roccia, ora anche letta nell'inizio di questa udienza. Su questa parola di Dio mi sono soffermato a riflettere poi anche domenica mattina, solennità dell'Ascensione, nel corso della celebrazione conclusiva della mia visita. È stato un incontro liturgico animato da una straordinaria partecipazione di fedeli nello stesso parco in cui la sera prima si era svolto l'appuntamento con i giovani. Ho colto l'occasione per rinnovare in mezzo al popolo polacco l'annuncio stupendo della verità cristiana sull'uomo, creato e redento in Cristo, quella verità che tante volte Giovanni Paolo II ha proclamato con vigore per spronare tutti ad essere forti nella fede, nella speranza e nell'amore. Rimanete saldi nella fede. E questa è la consegna che ho lasciato ai figli dell'amata Polonia, incoraggiandoli a perseverare nella fedeltà a Cristo e alla Chiesa, perché non manca all'Europa e al mondo l'apporto della loro testimonianza evangelica. Tutti i cristiani devono sentirsi impegnati a rendere questa testimonianza per evitare che l'umanità del terzo millennio possa conoscere ancora orrori simili a quelli tragicamente evocati dal campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Proprio in quel luogo tristemente noto in tutto il mondo, ho voluto sostare prima di far ritorno a Roma. Nel campo di Auschwitz-Birkenau, come in altri simili campi, Hitler fece sterminare oltre 6 milioni di ebrei. Ad Auschwitz-Birkenau solo morirono anche circa 150.000 polacchi e decine di migliaia di uomini e donne di altre nazionalità. Di fronte all'orrore di Auschwitz non c'è altra risposta che la croce di Cristo. L'amore sceso fino in fondo all'abisso del male per salvare l'uomo alla radice, dove la sua libertà può ribellarsi a Dio. Non dimentichi l'odierna umanità Auschwitz e le altre fabbriche di morte nelle quali il regime nazista ha tentato di eliminare Dio per prendere il suo posto. Non ceda alla tentazione dell'odio razziale che è all'origine delle peggiori forme di antisemitismo. Tornino gli uomini a riconoscere che Dio è padre di tutti e tutti ci chiama in Cristo a costruire insieme un mondo di giustizia, di verità e di pace. Questo vogliamo chiedere al Signore per intercessione di Maria, che quest'oggi, concludendo il mese di maggio, contempliamo solerte e amorevole nel visitare la sua anziana parente Elisabetta.